Poi lasciano la Roma i sussidi che però. Mi lasciano la Roma. Ah, basta mettere per giù la mano. Io. Comunque c'è un po' di ghiaccio la sera. Ma qua non si vedeva niente, oggi non si vede Sassa, di prima non si vedeva niente. Davvina. Ah? E allora? La brida si trasforma in media. Non ti fa vedere un capo così da ieri. Vado a fare una commissione, non ha acceso nessuno le macchine. Chi c'è una delle quattro feste, chi c'è una delle feste più accenti e passavano a razzo. Se c'è qualcuno all'ascolto, quel canale là, proviamo quel canale là. Arraccamento agricolo. Tutto. Se finite di lavorare. Grazie. No, un'altra mezz'oretta. Anche ci curirebbe, non avete fatto chissà. Vabbè. Formaggio cosa svermo, non ne avrete. No, no, niente, formaggio con i fermi, forse quest'anno. All'anno nuovo. Ma si stavano a mangiare un cascio, boh, e poi che me lo buscavi. Si è andato male. Ah, male per me. Sì, ma quando ci sono i fermi è meglio. Quando si guarda entrano i fermi e mangiano. E poi lasciano la caffè mia. Cosa saltano? Sarebbe la cacchetta dei fermi, noi ce la mangiamo, a crema. Quindi, niente, va. Oia. Bene, meda, bene, meda. Boh, non si sente nessuno stasera, come mai? Però non si mangia la canna, addormentati. Ah, io perché? Che ore sono? Io sono le 8. Ah, sono le 9 e un quarto. Già, va bene. Capo i due, ci sì. Niente. Hola. Vole. Pensiamo ai canali 10 che vuole entrare. La parte della pubblicità di avanti che vuole entrare sul 10. Avanti. Andiamo là. Caccarata. Ha provato un ragazzo e ha ammazzato quel signore in continente, Gianni. No. Quando se ne vai via. Poi dice che ti dura la gamba, tra l'altro per qua la recensiste volevano solo viste, due bambole erano. Ma io non credo che sia facile, è quello perché questi qua che devono ricoverare, sai che devi stare almeno una quarantina di ore in osservazione, se ti fanno quella lì, stoppare, no. Io so che lì la fanno, cioè, per me non è fatta così. Non ho mai visto farlo così, A meno che non ci siano altre cose. Ma... Io ho parlato con il colloquio con l'anestesista, capito? Mi ha detto, le faranno questa funzione qua, sono aperte per l'altra per addormentare gli arti inferiori. Dopodiché, dopo l'operazione, si metterà questa ginocchiera per reggere il bene la gamba e dovrà portare anche le stampelle, perché se dovrà andare via con le stampelle. La sera, dice, la mattina la operiamo, la sera dovremmo farcela mandarla via. Non devo spittare, capito? E ho detto, vabbè, vediamo un pochettino. E mi ha detto di non preoccuparmi per la puntura, perché è un ago fino, e buttano delle gocce sopra la pelle e che fa un'anestesia locale per farti questa puntura qua. Dopo con questo ago noi entriamo piano piano, sono liberato dalla vertebra e iniettano a poco il coso cielo per farti addormentare la gamba. Ti si addormentano la gamba, dice non la controllerai più, non te la sentirai più la gamba, non riuscirai più a controllarla dal momento che noi ti facciamo l'anestesia. E poi piano piano ci si risveglia, prima sente un formicolio e poi piano piano si risveglia dopo l'operazione. Lei mi ha parlato che la macchina me la fa e la sera mi mandano via. Così mi ha detto. E comunque c'è una gran filastrocca di persone che devono fare l'operazione. Addirittura per questa mattina c'era questo signore che era incazzato nero, gli hanno fatto scadere tutte le analisi aspettando a chiamarlo e non gli volgono più le analisi, deve rifare tutto da capo. Strano, va bene, la verità gli ho visto che sfornano parecchio lì, pare nei casi mentre lo fornaio, sempre sfornando di queste che sono procedure di 20 minuti così. Non lo so, certo è che ci vogliono parecchi lì. E mi ha detto anche il nome, come si chiama questa cosa, però non me lo ricordo. Allora c'è l'anestesia locale, quella totale e questo qua che è tutta un'altra cosa, non è né totale né parziale, non riesco a capire come si chiama, non so, si chiama anestesia, me l'ha anche detto. Vabbè, comunque mi ha detto che praticamente è quella che non è né totale né parziale, che è un altro tipo di anestesia che ti addormenta gli arti inferiori e te la fanno, capito, te la fanno così, ti fanno, mi ha descritto, tuo amore deve essere un po' dolorosa, perché io gli ho detto sono un po' suggestionato dal fatto che quando mi avevo cognato gli hanno entrato l'ago nella schiena per prelevare il midollo, ci ha telefonato da Parigi a Griga, mi stanno torturando, venite a prendere, mi hanno entrato l'ago dentro la schiena, mi stanno prelevando il midollo, ce l'ho ancora qua per qua, riesco a gridare. Per caso è mi pare di sì. Epidurale. Beh, ma ti addormenta solo gli arti inferiori e basta, non tutto il corpo. Tutto il corpo, tranne la testa. Ciao, buonasera. Poi, ciao, tutto il corpo. Quando inizia a svegliarsi poi ti farò delle punture perché inizia la persona un po', non è come ho detto loro, la formico io, come te lo posso spiegare, la persona scatta, la scatta. così, era tipo confusione. Tipo una cosa del genere, tipo... mi ha detto praticamente che sento questo formicolio piano piano ti svegli, ma veramente delle belle ragazze, caspita, veramente carine tutti e due, sia l'infermiera che l'anestesista, tutti e due molto carine e giovani anche. Ma mi ha detto di andare senza roba loro, senza oggetti metallici. Questa è così qui che l'ha scritto, delle montagne non me ne ha parlato. Tu vai sempre, così almeno. Fa capo. Un casino, è un casino. Ma no, la gente che si deve fare la colazione, mangiare la merendina e vabbè. Ehi, vabbè, le vado di sopra l'arte, ma innanzi a me, io penso a me. K, un po' di FIFA ce l'ho, la verità, da quando mi ha parlato di questa iniezione lombare, mi ha un po'... vabbè, io ho assistito mio cognato che, anche se è una cosa un po' diversa, che gli hanno prelevato il midollo e si dice che è un dolore atroce quello che ti fa. Con la gamba che non va bene. Esatto. ponte di Caccarata, sono operato a un calacchio, all'altro occhio, e un'altra cosa che ho subito è con l'operazione con drenaggio aperto, che ha avuto quell'ematoma là, quello lì è stato un bel brutto, mia moglie piangeva sempre, perché l'avevo appena sposato, mi telefonava, torno a casa, io non voglio stare sola, voglio a te, si metteva a piangere, già mi facevano male, qui questa paranoia che lì non stava bene, che era giù di morale e cosa, e poi vedevo i dottori che quando mi medicava lo dicevano con la testa, come dire, che sto facendo da fare, sta andando male, capito? Lo so, allora lì è paranoia. Ma questo va, dopo che hai finito vedrai che mi dai ragione, che non è, diciamo che è una cazzata, dai. Ma te dei proprio lì ti hanno operato anche al menisco? No, allora, ma questa però, questa cosa era che la schiena non me l'hanno fatta, se no è in caso di altre patologie, non lo so, no. A me non l'hanno fatta così, a me mi hanno esercitato la gamba e boom. Cazzo, se avevo dato la bromita d'acqua, poi avevo voluto precisare l'acqua che... ha preso più dopo che prima, nel primo momento. Ma chi vuole entrare avanti? Anche tu. No, non sono io, no. Ho capito, avanti. Parla. Come si può dire, dopo la salita ci sarà la discesa, dai. E vabbè, ce lo auguriamo. Io non voglio stare per i tanti giorni, ma tu lo sai benissimo che lavoro. Quello poi si rompe di cazzo alla fine, non è che... Anche se oggi sono andato nei puntini. Ah, io più giù. Poi... Mio nipotino è nato il figlio di mio nipote oggi. Auguri. Grazie. E maschiedos. Quindi sanno, quelli prendono il nostro posto già, eh? E beh, saranno la finire del mondo. Poi già gli è nato in casa di benestanti che gli possono dare lavoro e tutto, quindi non hanno problemi di quel genere lì, hanno 16 negozi, quindi ha voglia di lavoro. E qua? Quello è anche un'altra rete, mi sono capito. Allora, è figlio, praticamente è figlio del mio principale, no? Sono anche di famiglia, lei fa la farmacista, stanno bene, là. Io sono bene poi, questi, allora, i cantanti si sposano con i cantanti, i calciatori si sposano con le veline, i ricchi si sposano con le ricche, però cazzo è sempre così, non si sposano mai con una povera. Discriminano la gente. La gente popolare la descrivono, non pensare che trattino la gente di popolo come la gente che ha soldi. Per loro contano solo quelli che hanno soldi, che stanno bene, che possono darle qualcosa, capito? Anche le donne scelgono la gente che ha di là. Sì, infatti, è sempre così, eh. Non ho niente, allora tu gli è sempre così, non so perché, ma...